modernità, modernità. Voglio che tu muri resistenza, difende, sarà rigua mi fai presenti modernità. Noi è banalità, ma non è bestioni, le luce Deus, modernità. Modernità, modernità, modernità. Voglio che tu muri resistenza, difende, sarà rigua mi fai presenti modernità. Wow! Ricordo tu la giove, viene wow! Ricordo tu...